e bentornati a Cialtroni nello spazio. Sono allibito. Hai preso parola tu per primo, adesso non importa. Che cos'è Cialtroni nello spazio? L'attimo di approfondimento culturale, tecnologico, informatico, internetario di Radio Onda d'Urto. Senza nessuna censura. No, come senza nessuna censura? Marco sì, è censurato, chiaramente. Almeno fino a quando potremo farla senza censura. E proprio di censura andremo a parlare tra poco, relativamente a quello che si muove dopo la cosiddetta emergenza che si è creata a seguito della pubblicazione del famoso video delle violenze su un disabile in una scuola superiore italiana. Arrivano dichiarazioni di ministri, in particolare quello delle comunicazioni, Fioroni, che vorrebbe mettere una stretta su internet. Di questo ne parleremo più tardi, invece abbiamo altre notizie di cui parlare. Ale. Allora sì, ci sono un po' di aggiornamenti. Allora, partiamo con un'informazione di servizio. E è in corso in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo mese, una seconda grande ondata di bollette impazzite, ovvero di bollette contenenti chiamate, numeri telefonici o servizi a pagamento tipo 899, numeri satellitari o numeri 700X. Che appunto gonfiano le bollette. C'è tutta una tornata di appunto di nuovi dialer, sostanzialmente di programmini, di piccoli software che si inseriscono nel computer attraverso il collegamento tradizionale, quindi con modem a 56k, e si collegano a questi numeri telefonici. Allora, per questa seconda ondata pare che ci siano delle contromisure, ovvero Telecom Italia si è dimostrata sensibile, tra virgolette, nel senso che già lo doveva fare, comunque pare non essere più particolarmente ostica come è successo 4 anni fa. Quindi è possibile, questo grazie anche alle azioni portate avanti dall'associazione dei consumatori, comunque è possibile facendo reclamo presso Telecom Italia con le modalità previste nel contratto, che sono sostanzialmente il reclamo tramite mezzo fax che riporti il numero della bolletta e il nome dell'abbonato, e accompagnato questo fax dalla denuncia alle autorità competenti, che in questo caso è la polizia giudiziaria, dovrebbe portare a un automatismo, il condizionale è d'obbligo, da parte di Telecom Italia, che storni l'importo presso questi numeri telefonici dalla bolletta. In ogni caso Telecom Italia ribadisce, cosa che non ha mai fatto, che il mancato pagamento dei servizi a tariffa specifica non costituisce in alcun modo titolo alla sospensione del servizio telefonico, cosa che invece era spesso paventata dagli operatori di Telecom Italia interpellati, chiaramente da operatori a cui era stato detto espressamente di tenere questo tipo di approccio rispetto all'utente. Beh, però effettivamente l'approccio di Telecom Italia è comprensibile, perché una parte appunto di quei guadagni entravano poi direttamente nelle tasche di Telecom Italia. Diciamo che dal loro punto di vista, intendo. Sì, era utile. No, diciamo che è sempre stato additato dalle associazioni dei consumatori, ma da tutti, dalle persone sensate, questo conflitto di interessi assurdo, per cui Telecom Italia si faceva da intermediario rispetto a queste società, chiaramente non rintracciabili facilmente, perché poi fallivano con una rapidità impressionante, oppure avevano sedi all'estero. Però Telecom Italia si faceva da esattore per queste società, e quindi riscuoteva senza, però sostenendo di non avere nessun tipo di legame, quindi di non avere nessun tipo di responsabilità. E vabbè, la cosa dovrebbe esserci un attimino ridimensionata e sistemata. Vedremo se terranno fede a quello che dicono. Andiamo a parlare invece adesso di una chicca che arriva dagli Stati Uniti. Una vera e propria chicca, perché sembra dar adito alle peggiori leggende metropolitane che ci sono in giro per il mondo da quando sono nati i telefoni cellulari. Infatti, in un recente caso, l'FBI è riuscito a spiare due mafiosi che avevano il cellulare spento attraverso il loro cellulare. Ma quindi dai, questa... non è vero! E infatti questa sembra essere quello che in tanti dei servizi antibufala, tutti quelli che hanno cercato di dare un briciolo di dignità al fatto che si dica qualcosa di minimamente sensato, invece no, sembra proprio così. È possibile attraverso alcuni modelli di cellulari spiare e trasformare questi cellulari in microfoni ambientali. L'operazione non è semplicissima, in particolare si può applicare solo su alcuni modelli di cellulari. Qua nell'articolo che leggiamo da Punto Informatico sono citati i modelli della Nextel e i modelli della Samsung e la serie Razr di Motorola. Si potrebbe, detto molto brevemente, attivare questi cellulari a distanza con un download remoto, senza alcun accesso fisico, all'insaputa del proprietario, quindi sostanzialmente mandare una specie di virus su questi cellulari, che poi possono essere appunto intercettati anche quando sono spenti. Non è che sono spenti, si accendono senza che l'utente se ne renda conto. Cellulari di nuova generazione, infatti, non fanno solo da telefono, fanno anche da sveglia, da agenda, da un sacco di cose, per cui rimane tu qualcosa. Per cellulare di nuova generazione attivo. Intendi qualsiasi cellulare che non sia vecchio come il tuo, spero, perché la sveglia... Il mio non sarà mai controllabile, mettiamola così. Ok, vabbè, comunque... E appunto questa brutta caratteristica di alcuni telefonini appunto potrebbe essere teoricamente sfruttate. Infatti in pratica abbiamo appunto questi atti del processo che dichiarano che Abbiamo detto l'articolo di Punto Informatica cita un processo che è stato questi atti sono usciti da un processo contro due mafiosi che erano John Ardito, uno dei membri più potenti della famiglia mafiosa dei Genovese, e poi il suo avvocato Peter Peluso, ed è emerso dal pronunciamento del giudice del distretto Lewis Kaplan, che ha appunto pubblicato di recente le motivazioni di questa sentenza e definiva il sistema una sorta di cimice vagante, e lo ha tra l'altro dichiarato legittimo secondo le leggi federali, quindi l'FBI potrà continuare a utilizzare questo metodo per spiare coloro che vogliono. Quindi in questo caso si parlava di potenti mafiosi, domani potrebbero essere anche... Quindi quando l'estate prossima dovrete andare a rubare le ciliegie al vostro vicino, o il telefonino o lo lasciate a casa, oppure staccate la batteria, quello è il modo più sicuro. Ecco, mettere in tasca la batteria è un buon metodo per cercare di evitare questa cosa. Ovviamente poi qualcuno può sempre piazzarci una cimice da qualche parte addosso a voi, quindi nella ciliegia per esempio. La vista, baby. Di che cosa andiamo a parlare adesso? Andiamo a parlare di Windows Vista. Windows Vista è la nuova release di Microsoft Windows, che uscirà intorno a gennaio. Nuova release, ma avrà un po' di roba nuova, ma avrà un sacco di roba vecchia al suo interno. C'è ancora un mistero sul fatto se i computer che esistono oggi riescono a supportare questo sistema operativo, perché qualche dubbio ogni tanto viene. Questa infatti è una delle poche novità. La novità sicura è che per far girare Windows Vista servirà un computer mostruoso con una quantità di RAM infinita, tipo 2 giga penso, o almeno 1 giga soltanto per farlo funzionare, partire. 1 giga è il minimo. 2 giga per riuscire a utilizzarlo. Servirà una scheda grafica della Madonna, una roba tipo, questo è un termine prettamente giornalistico, 200, la famosa scheda 200 grafica. Euro di scheda video soltanto per utilizzare l'accelerazione 3D avanzatissima di questo coso, che funziona tra l'altro, vabbè, come molto simile all'interfaccia grafica dei Macintosh o dei sistemi Linux di ultima generazione che girano anche su dei rotanti. Eppure, nonostante questo, ci sarà qualcuno che avrà i soldi per comprarsi un computer nuovo apposta per vedere funzionare Windows Vista. Che costerà tra l'altro anche un sacco di più, ne usciranno tipo 6 versioni, la Experience super fichissima da 300 e passa dollari, quella un po' di meno, quella ancora un po' di meno, che però, vabbè, Marco, ascolta, però comunque ne vale veramente la pena, perché gli effetti grafici non si sono mai visti prima. Ah sì, infatti, a parte che sul Macintosh e su Linux e sugli altri sistemi che esistono, però vabbè, però in realtà voi che vi preoccuperete, Marco, Windows Vista, io sono preoccupato per la sicurezza di Windows, ma appunto no, perché voi che siete, quindi appunto, voglio passare a Windows Vista, perché non mi fido di quello che è Windows 98, no, Windows tu stai XP, prendendo quindi l'approccio sbagliato, perché appunto tu, il tuo problema sarà, ma le cose che funzionavano su Windows XP funzioneranno ancora su Windows Vista? Per esempio. E io ti dirò, esatto, il 40% dei virus presenti su Windows XP funzioneranno ancora su Windows Vista, testato dai Sophos Labs appunto in questi giorni. Quindi appunto c'è questa compatibilità lì indietro. Beh, verso è la dimostrazione che funzionano tutti i programmi verso sulla nuova versione. I malware, non è detto che funzioneranno tutti i programmi, esatto, quello. Poi ovviamente ci sarà il nuovo Windows Genuine Advantage, che sarà in grado di castrare le funzionalità del sistema se appunto questo Windows Genuine Advantage deciderà che la copia di Windows non è originale. Ad esempio, il mio amico batterista ha il suo portatile Dell comprato con Windows originale, e Windows Genuine Advantage dice: non è una copia originale di Windows XP. E gli compare una simpatica iconcina in basso a destra, vicino all'orologio. Non lo puoi che più aggiornare. Non lo puoi più aggiornare. Tra l'altro, appunto, uscirà tra un paio di mesi al più Windows Genuine Advantage versione 1.0. Che già qua ormai è contenuto all'interno dei Windows Update automatici da mod già da 3 anni, e raggiunge solo ora la versione 1.0. Considerando che è la cosa che blocca appunto l'attività del sistema operativo, direi che è ottimo. Quindi, sintetizzando, mi state dicendo che Windows Vista, per avere gli stessi effetti grafici, serviranno delle risorse praticamente infinite. Per essere sicuri dai virus non è una buona soluzione, costerà un sacco di soldi, e che la registrazione potrebbe bloccare a un certo punto l'utilizzo di certi programmi, perché magari ho cambiato l'hard disk o ho cambiato la scheda video. Però c'è una cosa positiva: sarà dotato all'interno dei sistemi di management dei controlli del copyright, per cui ti impedirà di vedere ad alta risoluzione dei filmati che magari hai scaricato da internet, ma su cui non c'è proprio tutte le cose perfette per quanto riguarda il copyright. Potrei vedere solo a bassa risoluzione, anche se le hai scaricate a alta risoluzione, perché va a creare un canale criptato tra la scheda video e l'interno del tuo computer, controllato da remoto dal sito della Microsoft, che decide se il contenuto multimediale che hai può essere guardato o meno. Ma una soluzione a tutto questo c'è? Non mettersi su Vista. Anche perché per chi avesse pensato appunto di, vabbè, come sempre è stato fatto per i sistemi operativi dalla Microsoft, ovvero di installarselo a UMA, anche perché appunto costa parecchio. Installarselo come, scusa? A UMA, come si dice, o de Spruce. Termine tecnico. Il francesismo. De Spruce è tecnicissimo. Allora, no, è già presente su internet, perché c'era già in giro la versione beta, alfa, beta 2, 3, 4 di Vista, che ha avuto diversi tentativi di lancio, e è già presente sulle reti peer-to-peer in generale. Un crack di Vista, ne sono presenti diversi. Uno di questi in realtà è una sola, è un crack che contiene un come si dice, un Trojan, che permette l'accesso da remoto alla propria macchina, come il classico dei Trojan. Che cos'è un Trojan? Un Trojan, cavallo di Troia. Ho parlato un milione di volte, esatto, è un cavallo di Troia, è un software che si appiccica ad un altro pacchetto o un altro file che voi installate, e apre una connessione o la possibilità di una connessione al vostro computer da internet. Per cui chiaramente chi ha il programmino dall'altra parte per utilizzarlo si attacca al vostro computer e può fare cose diverse a seconda del Trojan, di solito accedere ai file, modificare. Ma l'ha inventato Ulisse. L'ha inventato Ulisse. Sì. Per superare il firewall di Troia. Peccato, non l'ha brevettato però, per cui lo possono usare tutti. No, questo è un altro dei problemi appunto delle versioni di Windows, prima XP e poi adesso sarà di Vista. Insomma, caccare il sistema operativo è sempre una cosa piuttosto impegnativa. Per cui, per chi pensa che insomma, vabbè, alla fine Windows si può usare anche craccato o è morta lì, le cose diventeranno sempre più difficili, per cui insomma svegliamoci, abituiamoci ad usare qualcos'altro, perché insomma, non sarà più possibile farlo prima o poi. C'è sempre la soluzione di installare Linux, buttare via i computer nuovi e tornare a quelli vecchi, cosa che piace molto fare a Marco, ad esempio. E cosa? Invece che comprare un computer nuovo, andare a raccattare nella spazzatura un computer vecchio, installarci sopra Linux. Certo, sì. La dimostrazione la si potrà avere domenica prossima, non questa, al Circo Lab, dove si può venire a vedere che cosa è successo. Beh, con dei vecchi computer che c'erano. L'arte del riuso, appunto, viste le richieste dei sistemi Microsoft, va molto bene ultimamente. Però vabbè, adesso devo andare a esagerare sul fatto di raccattare i computer in pattumiera, dai, non è che ti hanno quasi arrestato una volta. Non è vero. Facciamo uno stacco musicale. Prima di andare a parlare di censura, qual è la musica che ci proponi oggi? Allora, lemondial.net, By The Face è il nome del disco, registrato live, un gruppo francese che fa funk rock. Cioè, è un gruppo francese che quest'anno fa un La Mondiale, sembra un po'... vabbè. Se uno pensa in termini calcistici, intendo. No, basta calcio. Cioè... vabbè. Basta calcio. Nessuno che lo vede male sta litigando con Windows. Maledizione. Ah, ma perché in radio c'è Windows? Get away like a jet ray, do what it takes, no matter the stakes. I wanna change people. In studio per andare a parlare di censura. Ma in Cina? No. In Cina si sa, censurano tutto. No, ne abbiamo andato mille volte, non si sa la Cina, insomma. Allora, Cuba? No. A Cuba non dare. C'è la censura. Ah, è vero? Scusatemi, chiedo perdono. E sarà negli Stati Uniti? No, figurati, negli Stati Uniti no. Dove può essere la censura? In Italia. No, vabbè, l'argomento è serio. Allora, in realtà si tratta di l'ennesima emergenza montata dai mass media, viene da dire. Beh, montata dai mass media e come al solito i politici anche altolocati ci hanno messo del loro. Ci hanno messo del loro e ci hanno fomentato e seguito questa, appunto, questa nuova fobia di internet. Veniamo ai fatti, Zamp, ricordaceli. Ma sì, nelle scorse settimane si è parlato molto di bullismo nelle scuole, dopo soprattutto che un video in una scuola di Torino era finito su internet e si vedeva alcuni ragazzi che picchiavano effettivamente un disabile. Questo video ha permesso tra l'altro di raggiungere i responsabili, che sono stati sospesi per un anno da scuola, sono stati bocciati una pena di questo tipo, e ha anche, diciamo così, lanciato un po' il problema del bullismo. Almeno ha fatto diventare copertina dei principali mezzi di comunicazione in Italia. Però, come spesso accade, il fatto che questo video fosse stato pubblicato su internet e che quindi fosse stato anche molto scaricato, molto guardato, ha creato una sorta di allarme sociale per il fatto che su internet si può trovare un po' di tutto. Non è una novità, periodicamente queste sono cose che tornano nel dibattito pubblico e anche nel dibattito politico italiano, la pubblicazione su internet va a colpire interessi economici come quello del per esempio famoso del come si dice aziende discografiche o aziende produttrici di film, che non accettano il fatto che i video o la musica vengano spesso pubblicati liberamente su internet e violando tra virgolette i coloro che ne detengono i diritti d'autore, sia quindi per problemi economici, ma molto spesso anche per cose di tipo etico o morale o presunte tali, e questo rientra un po' in questo caso. In particolare il ministro Fioroni della comunicazione ha detto che, siccome esiste una legge sulla stampa che vieta di pubblicare alcuni tipi di contenuti, questo dovrebbe in qualche modo estendersi anche a internet, ma non è così semplice. Infatti, appunto, la sua citazione è: intendo tutelare i minori dall'accesso a tutto ciò che possa danneggiare la loro formazione e il loro sviluppo. È assurdo e ipocrita avere una censura sui film vietati a 14 anni e 18 anni, quando poi in rete c'è di tutto di più. Queste sono le parole del ministro. Esatto, il suo approccio, vabbè, fa forse anche un po' sorridere per quanto riguarda, però, questa sua volontà di trasporre la censura per i film vietati minori, appunto presente in cinematografia e nella stampa, volerla tradurre in internet, appunto, perché cioè il ministro probabilmente le sue intenzioni sono buone, però applicato a un sistema come internet questo approccio fa un po' sorridere, ma un sorriso un attimino amaro. È una tematica che spesso torna, quella di cercare di trasformare coloro che offrono dello spazio via web o la possibilità di pubblicare liberamente del materiale, trasformare queste persone in una sorta di editori della carta stampata, a cui è effettivamente delegato il compito di controllare quello che viene pubblicato. Però questo ovviamente non è possibile, quindi sembra quasi ridicolo il fatto che gestori di Google vengano denunciati per il fatto che il video di questo ragazzo di Torino picchiato dai suoi compagni di scuola era stato pubblicato su Google Video. E appunto il ministro Fioroni quindi intende andare a fondo di questa questione e ha promesso che per Natale uscirà una... In accordo con il ministro della giustizia Mastella. Wow, che grande aiuto. Che questi due appunto, ci va a nozze. I nostri Gianni Pinotto, riusciranno a produrre una nuova legge in grado di tutelare i minori che possono accedere a internet, però andando a creare di fatto qualcosa di molto simile a una censura, molto simile a alla censura che esiste già su internet, esiste però in un paese che si chiama Repubblica Popolare Cinese e quindi ci va a portare un attimino indietro per quanto riguarda la... Ah, ci sono ancora un po' di cose. Ci sono un po' di cose curiose sul fatto che verso Natale si arrivano sempre queste bombe. Tutti dovrebbero essere più buoni, si stringono alla famiglia. E allora anche ai politici viene un po' da dire: tuteliamo i nostri figli, che sulla rete sono senza rete, e dichiarazioni del genere. Viene da ricordare che proprio un paio d'anni fa, nel Natale del 2003, tre anni fa, arriva dal precedente governo un'altra bomba che era destinata a internet, quella sulla data retention, che si era concretizzata poi l'anno scorso col decreto Pisano, in cui le comunicazioni degli italiani sono state poste sotto un controllo esteso e continuo, e che era già stata definita già all'epoca pericolosa. Fa sorridere che venga sempre verso Natale, ma forse la cosa che più fa sorridere è che il ministro Fioroni non è nemmeno in grado di controllare il suo blog. Infatti, subito dopo le sue dichiarazioni, qualcuno è andato a vedere il blog del ministro Fioroni e l'ha trovato pieno di pubblicità di siti pornografici. Cos'era successo? Il nostro signor Fioroni aveva lasciato abilitati i commenti sul suo blog, si era dimenticato dell'esistenza del suo blog, e questo blog era stato poi preso di mira da una serie di spammer che volevano fare la pubblicità più ai loro o meno siti. Mirati, più o meno consapevoli di chi forse stavano, esatto, anche. E appunto hanno preso il sito del signor Fioroni e hanno visto che aveva la possibilità aperta a tutti di inserire dei commenti, probabilmente voluta nella... durante la campagna elettorale. Queste cose appunto si fanno, no, per esatto, essere per alla moda, per essere figo. E allorché il signor allorché questi spammer hanno deciso di riempire bellamente tutta la zona dedicata ai commenti del blog del signor Fioroni con la pubblicità dei loro siti pornografici. Che adesso denunceremo Fioroni per violazione delle leggi, eccetera. Beh, eccetera. In realtà un bambino o un ragazzino che fosse andato a visitare il sito del signor Fioroni, appunto in quanto ministro dell'istruzione, quindi una persona abbastanza importante, il suo sito ufficiale era appunto pieno di questi link a siti pornografici. Quindi il signor Fioroni, secondo il suo ragionamento, sarebbe dovuto essere responsabile del contenuto del suo sito, e quindi in questo caso perseguito perseguito per la pubblicizzazione di materiale in questo caso vietato ai minori e senza protezione, perché poi il link chiaramente senza protezione di sorta. Vabbè, affidiamo qualche parola anche a qualcuno che è molto competente, visto che si occupa di queste tematiche da 15 anni, uno dei fondatori di Peace Link, Alessandro Marescotti, che ha scritto proprio una lettera al ministro Fioroni e gli scrive: gentile ministro, la sua scelta di equiparare internet alle testate giornalistiche non è efficace per lo scopo che lei si propone, se lo faccia dire da chi ha cognizione della materia. La sua dichiarazione è solo frutto di scarsa esperienza e un ministro non può farsi guidare da un impeto di passione sorretto da una sostanziale non competenza in una materia che non padroneggia. Tutto questo, anche se animato dai migliori propositi, finisce infatti per produrre l'opposto di quello che si vuole ottenere. Le mie idealità, finalizzate a costruire una telematica per la pace e la non violenza, coincidono completamente con gli obiettivi che lei vorrebbe raggiungere, ma i mezzi da scegliere per me divergono completamente da quelli che lei lei propone. Occorre responsabilizzare profondamente le famiglie e gli insegnanti. Non può essere Google a controllare al posto di un genitore che ha rinunciato a svolgere il suo compito educativo. Non può essere il gestore di un sito a intercettare alle 2 di notte l'upload di un giovane diseducato ai valori civili e umani, che evidentemente vive in una scuola superficiale, indifferente, formalistica, che non si accorge della mostruosità e della violenza che cova dentro di sé. Il problema è questo, scrive ancora Alessandro Marescotti, quel giovane potrà anche non fare l'upload, ma in ogni caso avrà violentato o maltrattato un altro essere umano, e vietare un upload non significherà aver ridotto la violenza o aver restituito dignità a chi è stato sfregiato nell'animo e nel fisico. Potremo rompere gli specchi che riflettono la realtà, ma ciò facendo non avremo sradicato la violenza, ne avremo eliminato soltanto il riflesso. E poi la lettera di Alessandro Marescotti pubblicata da Peace Link. Continua. Ma il dubbio che mi viene, ma questi dalla Margherita non c'hanno una persona a cui andare a chiedere un minimo di supporto tecnico su queste cose, che gli apre un po' gli occhi su come funziona il mondo? E ma probabilmente ce l'hanno, so. Perché probabilmente ce l'hanno, perché il ministro Fioroni si è accorto che il suo blog era pieno di materiale pornografico e ha deciso di sostituirlo con una pagina che dice sito in allestimento. E questa è anche la dimostrazione dell'incapacità di capire anche l'evoluzione del web, quando parliamo di web 2, comunque anche del web attuale, che è fatto di social networking, ovvero di produzione di materiale diffusa, di pubblicazione diffusa, quindi non più il gestore singolo o il pool di gestori di un sito, ma siti interamente fatti da collaborazioni, da commenti. Più o meno dove i fruitori del sito sono i primi produttori dei contenuti. Sono i primi produttori, esatto, dove la distinzione tra chi guarda e chi scrive non è più così netta come era una volta. Parlare di limitazioni, responsabilità è assolutamente anacronistico. Tra l'altro in questi giorni c'è stata un'ulteriore richiesta della FIMI, Federazione Italiana Musicisti Italiani dell'industria. No. Sono un po' patriottici. Federazioni dell'industria musicale italiana, comunque chi si occupa dell'associazione che difende tra virgolette i diritti degli industriali che producono musica, che è tornata a chiedere ai ministri competenti, in questo caso il ministro delle telecomunicazioni, una maggiore protezione rispetto al diritto d'autore, e quindi di estendere le responsabilità degli internet service provider, cioè quelli che danno la connessione, rispetto ai contenuti che vengono condivisi. Quindi chiedono un inasprimento della già assurda legge Urbani che è attualmente in vigore per gli internet provider. Che è assurdo, è una cosa allucinante, perché in Europa non c'è nulla di simile alla legge Urbani. Loro vorrebbero addirittura inasprirla e inasprire ulteriormente la responsabilità degli internet provider. Beh, ma abbiamo un personaggio come Mastella alla giustizia, per cui sicuramente non farà passare una legge insulsa e idiota. Certo. E chiudiamo con una bella chicca. Esatto, sì, è proprio una puntata di deliri. Nel senso che sono arrivate veramente delle notizie cioè sembrerebbero deliri nello spazio, incredibili se non fossero vere. È emerso recentemente da un'inchiesta di Associated Press, che ha fatto presso il giro del mondo, una notizia incredibile. Da 4 anni, pare, anche se sulla data precisa nessuno si sbilancia, comunque da un po' di tempo, l'Homeland Security Department degli Stati Uniti sta monitorando chiunque viaggi da o verso gli Stati Uniti. E questo potrebbe essere anche sembrare abbastanza banale dirlo, insomma. E questo, diciamo, sì, è stato anche più o meno annunciato. La cosa interessante che è venuta fuori è che a fare questo monitoraggio, la prima parte o comunque una parte consistente di questo monitoraggio è fatta da un sistema automatizzato che si chiama ATS, Automated Targeting System, che attraverso una serie di informazioni che riceve attraverso le dogane, gli aeroporti, i servizi di autonoleggio, comunque dove ci siano punti di accesso telematizzati, Allora, questo sistema raccoglie una serie di informazioni, le elabora in maniera con un algoritmo chiaramente segreto e ne deduce un terror score. Tecnicamente un punteggio di terrore. Diciamo che chi ha scritto questo software aveva appena finito un videogioco e quindi... È tutto vero, nel senso, questo è emerso dall'inchiesta e il Dipartimento di Sicurezza americano non ha smentito, perché ci sono comunque delle prove consistenti, quindi attualmente c'è un mini scandalo che come tipico in queste cose, insomma, è più o meno coperto, i media comunque ne stanno dando abbastanza risalto. Interessante, vabbè, prendere alcune vedere su che informazioni lavorava: biglietto d'aereo, viaggi effettuati in precedenza dal soggetto, con che automobile ha circolato, che posto ha scelto in aereo, queste vabbè cose che potrebbero essere anche sensate, ragionevoli, vabbè. Ma nel calderone finiva anche il menù, o comunque quello che il soggetto aveva mangiato a bordo. Vabbè, chiaramente. Anche se non lo mangiate, comprate del prosciutto quando andate negli Stati Uniti, così non pensano che magari avete qualche cosa di strano semplicemente perché magari siete musulmani. La cosa grave è che questo sistema era questo, o meglio, questo terror score veniva utilizzato poi da vari apparati, appunto, dell'Homeland Security Department. Per appunto era fornito da questo servizio ai tribunali, al congresso, per stabilire condizioni di commissioni private, quindi assegnazione di appalti, insomma, era anche poi uno score utilizzato effettivamente dalla burocrazia americana per poi interagire con la persona di turno. A questo ci sono state diverse reazioni, prima della... Il responsabile della commissione del Senato americano sulla giustizia, che dichiara: incredibile che l'amministrazione Bush voglia condividere queste informazioni con governi stranieri, persino con aziende private, mentre al contempo rifiuta ai cittadini americani di vedere o confutare questi terror score. Infatti mi ero dimenticato di dirlo, chiaramente sono segreti, nel senso, uno non può sapere qual è il terror score che gli è stato appiccicato. Può semplicemente fare delle congetture. Però in compenso il Dipartimento di Sicurezza si riserva la possibilità, appunto, di trasferire questo score non solo internamente, come abbiamo detto, a tribunale, congresso, eccetera, a committenti privati, esperti, consulenti e studenti per non so, ricerche su questo fantomatico terror score, ma si riserva la possibilità anche di trasferirlo a governi stranieri e in ultima stanza anche aziende private. Non si sa bene per quale motivo, però per assumerti, licenziarti, dai, insomma, come fai a metterlo in dubbio? Beh, un'azienda che lavora per la sicurezza nazionale non può rischiare di avere una persona che ne è andata qualcosa in bagno 4 volte durante l'ultimo viaggio. Chiaramente su questa cosa si sono espressi poi anche associazioni come l'Electronic Frontier Foundation, che è sempre in prima. Solito. Esatto, che dice: probabilmente è il sistema più invasivo che il governo abbia mai implementato per quanto riguarda il numero delle persone coinvolte, perché comunque coinvolge un grandissimo numero di individui. Tenete presente che negli Stati Uniti l'aereo è utilizzato anche come mezzo di trasporto nazionale in maniera massiccia, e quindi anche tutti questi voli sono registrati, quindi è una cosa che incide notevolmente anche su, e soprattutto sui cittadini statunitensi. Quindi molto molto interessante, l'FBI e il Dipartimento di Sicurezza sono sulle difensive e minimizzano, però insomma la cosa si è gonfiata, staremo a vedere che risultati avrà. Ed ancora una volta la nostra sigla a sancire la fine di questa puntata, come ogni mercoledì. rocambolesca puntata. Rocambolesca, mi stavo dimenticando, l'ha accennato prima Francesco, il 17 dicembre riapre il Circo Lab. Alle 10 giorni. 5 del pomeriggio. Sì. Alle 5 domenica. Del pomeriggio, dove? Via Fratelli Bandiera numero 12, 10. 12. Cosa potete portare? 14. Qualcosa 14, va bene. Quell'intorno. Comunque in Via Fratelli Bandiera c'è una vetrata, è l'unico edificio con la vetrata. Ci saranno aperitivi e tutto quello che è sempre stato il circo, quindi la connessione internet. Poi il dettaglio del programma lo pubblicheremo sul sito, che è www.circolab.net. Poi manderemo... un sacco di ferraglia da guardare. Esatto, vi lasciamo con il, ricordiamo il nostro sito spaziocircola.net. Non verrà mai no, radiocircola.net. La nostra radio @circola.net. E vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo attorno alle 12:40. Ciao. Ciao.